sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. Questa è la mia storia e io sono qui. I diari di Voi siete qui, di Matteo Caccia. In collaborazione con l'Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano. Hazel Green, 24 dicembre 1994. Oggi è la vigilia di Natale. Finalmente è arrivata anche questa data importante che sembrava così lontana quando sono partito. Ed è arrivato anche il sabato, è arrivato anche l'ultimo sabato prima di Natale, quindi ovviamente nella mia fantasia rudimentale sarete tutti in giro a comprare i regali, tranne quelli che invece si tengono per il 24, tipo Bonini, che arriva sempre all'ultimo minuto, e noi continuiamo a raccontarvi storie di diari che in questa puntata ci sono arrivati entrambi dall'Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano, per i quali ovviamente li ringraziamo e grazie ai quali facciamo anche questo programma, questo spin-off di Voi siete qui. La prima storia con cui partiamo è la storia di Andrea, che oggi immagino avrà attorno ai 40 anni, che nel 1994 era un liceale. Forse ce li avete avuti dei compagni. È più facile immaginare i compagni, perché io poi non ho veramente mai conosciuto nessuno che l'abbia fatto. Tutti dicono, anch'io avevo un compagno che in quarta è nato negli Stati Uniti. Ecco, quei compagni lì che a un certo punto sparivano, dopo la terza, sparivano e riapparivano in quinta. Ed erano diversi, erano tipo usciti da Happy Days. Vabbè, negli anni 90 era un po' difficile Happy Days, però facevano finta di masticare un po' l'inglese, avevano gadget che noi non avevamo, perché non è come oggi che c'è tutto dappertutto e te lo compri su Amazon se non c'è in Italia, no, avevano, che so, delle scarpe. Mi ricordo Alex, questo ragazzo di Novara che era andato a vivere anche lui negli Stati Uniti un anno e tornò con le Vans ai piedi, tutti no. E ovviamente, oltre ad avere le Vans, era anche diventato uno skater fighissimo. Ecco, esattamente uno di quei ragazzi lì è Andrea. E ci racconta una storia che è ambientata in Alabama, quindi proprio nel cuore profondo dell'America. Quella, perché ovviamente non è che ti mandavano a New York o a Los Angeles. Ti puppavi tipo il Tennessee, il Wyoming, quei posti lì. Un'esperienza ovviamente, come la racconta lui, bellissima. E queste pagine sono tutte dedicate, a parte l'inizio all'arrivo, ai giorni di dicembre, in cui lentamente ci si avvicina al Natale e in cui in America succede quello che succede qui, ma come al solito 100 volte di più. Somerville, Alabama, 21 agosto 1994. Route, si chiama così la strada di fronte alla casa che abiterò per i prossimi 10 mesi. Una casa di mattoni rossi in mezzo alla campagna, nei dintorni di Somerville, Alabama, nel down south degli Stati Uniti. Hazel Green, 7 dicembre 1994. Si avvicina a grandi passi lo scadere del primo mese nelle mie nuove famiglie. Mi fa ancora effetto pensare che siano due e non una. Ormai mi sono abituato ai continui spostamenti di casa. È una routine senz'altro più attiva che a Somerville. Da qualche giorno, intanto, sono iniziati i grandi preparativi per il Natale, e se dico grandi, intendo proprio grandi, sul serio. Case, alberi, cespugli e negozi si stanno coprendo di luci natalizie da cima a fondo. L'altro giorno sono salito a casa di Sharon per fissare le lampadine colorate sul camino e intorno alla grondaia. Sarebbe bello fare qualcosa anche da Jay, magari decorando di luci sia la casa sia la stalla. In ogni modo, come ha detto lui, there is no way to make that barn look pretty. Ma staremo a vedere. Ieri siamo andati a fare le prime compere natalizie che hanno portato in casa l'equivalente di $300 in dolciumi e decorazioni varie. Ormai le spedizioni al supermercato di questo tipo non mi stupiscono più. E siamo solo all'inizio. Mi hanno detto che via via che il giorno di Natale si avvicina ci saranno tante case impacchettate così tanto di luci da illuminare le strade a giorno. Hazel Green, dicembre, 20 dicembre 1994. Mancano 5 giorni a Natale. Tra le giornate dedicate allo shopping, i party di famiglia, le ore passate a fissare le lucine sul tetto della casa di Sharon e quelle trascorse a decorare gli alberi di Natale, uno per caso ovviamente, in questo periodo non mi è davvero avanzato un minuto. Well, meglio così. Insieme al 4 luglio il Natale è la festa più sentita in America. È come l'Independence Day. Il Christmas non ha nulla a che fare però con la religione. Ricordare la nascita di Cristo o semplicemente allestire il presepe qui non esiste. Hazel Green, 24 dicembre 1994. Oggi è la vigilia di Natale. Finalmente è arrivata anche questa data importante che sembrava quasi lontana quando sono partito. In questi giorni sono passato da una festa all'altra. Ieri sera, per esempio, sono andato con Sharon and Company a Tullahoma, in Tennessee, da alcuni amici che nemmeno a farla apposta era stata preparata in Italian style. Niente male, le lasagne. Più che discreta, direi, la pasta al sugo, improponibile la pizza surgelata. La padrona di casa ha dato prova di saperci fare tra i fornelli, ma la cena non è stata tutta merito suo. Infatti, ogni invitato aveva contribuito con una sua portata. Sul bancone della cucina erano allineati piatti e vassoi pieni di pasta, insalata, torte e crostini da sfamare un esercito. Su un altro tavolo c'erano le bevande, ovviamente senza ombra di alcol o di caffeina. Io ho contribuito alla cena con il panforte e il torrone che mi hanno spedito da casa. Sono spariti tutti, in pochi minuti. Un signore mi ha dato addirittura il suo indirizzo perché vuole che gli mandi il panforte anche l'anno prossimo. Dopo cena abbiamo fatto una partita a Dare, un gioco di prove al limite della follia da superare a turno. Così ho dovuto simulare una scena di scuse di fronte a una mamma incazzata. Ho mangiato, leccandolo dal piatto, una mistura di maionese, zucchero e polvere di aglio. Ho tenuto un bicchiere d'acqua in equilibrio sui piedi mentre ero sdraiato pancia a terra. E infine ho baciato una ragazza, niente male direi, per 20 secondi. E nonostante tutto, ho perso. Se volete ringraziare chi vi propone i Ramones a pochi giorni da Natale, ringraziate ovviamente Tiziano Bonini. Ringraziamo invece Andrea e l'Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano che ci hanno permesso di leggere la storia che lui scrisse, anzi il diario che lui scrisse esattamente 20 anni fa. Buongiorno Andrea. Sì, buongiorno a tutti. Ciao. Come stai? Bene, grazie. Come te le ricordi quel Natale di 20 anni fa? Mi fa un certo effetto, devo dire, riascoltare le parole che appunto ho scritto in Alabama ormai 20 anni fa. Me lo ricordo comunque come una grande emozione, perché quell'anno in America è stata veramente un'esperienza bellissima. Quanti anni avevi, Andrea? 17. Quindi eri il quarto anno superiori? Il quarto, esatto. Che sì, di solito è quello che si fa più o meno, non il terzo, non il quinto, il quarto, proprio quello di mezzo, in modo che poi uno torna ed è completamente stordito. Com'è stato il rientro in Italia, il quinto anno, che sensazione ti ha dato? Infatti devo dire che quello è stato un momento anche abbastanza delicato, perché ci si prepara molto alla partenza, ma molto meno al rientro. Ritorno. Sì, quindi ci è voluto comunque un po' di tempo per riprendere i ritmi di vita in Italia. Andrea, dall'accento e diciamo dalla parlata si capisce che sei toscano, ma di dove precisamente? Ma esattamente di San Giovanni Valdarno, comunque sono a Firenze adesso. Ah, ok. Cosa fai adesso nella vita, Andrea? Ma collaboro con alcune università americane qui a Firenze, appunto, come docente di materie economiche, quindi devo dire che pur in maniera diversa sono ancora rimasto in collegamento con studenti americani. Quindi insegni ovviamente in lingua inglese, cioè anglo-americana direi, e insegni, sì, dicevi, sì. Cose politiche? Micro e macroeconomia. Ah, ok, sei un economista quindi? Beh, c'è stato un sacco di cose, diciamo, che sono state tra l'America e l'impegno attuale. Poi ho studiato scienze politiche, poi un master in cooperazione allo sviluppo e alcuni anni in Palestina, dove ho cominciato a occuparmi di materie economiche e poi me le sono portate dietro, ecco. E da grande immagino più o meno che tu lo sia, visto che... Quanti anni hai, me lo ricordi, Andrea, scusami? 37. Per l'appunto, 17 più 20. E quindi però da grande, visto che in Italia a 37 anni sei un ragazzino, da grande vuoi continuare a fare questo oppure ti lasci aperte mille possibilità? Beh, no, insomma, qualche possibilità chiaramente comincia a chiudersi, però mi piacerebbe molto, ecco, restare impegnato nel settore della cooperazione internazionale, che è quello che ho fatto fin dagli studi universitari, educazione e cooperazione, e in questo senso l'esperienza in America è stata comunque fondamentale. Ci sei più tornato là, esattamente in Alabama, era giusto? Sì, in Alabama, assolutamente fuori dalle rotte, dai percorsi tradizionali con i quali si conoscono gli Stati Uniti, e devo dire che nel 94 tra l'altro non esistevano non solo i telefoni cellulari ma neanche le email, quindi certo. Io ricordo molto vivamente proprio il fatto che scrivevo il diario e scrivevo anche delle lettere cartacee per restare in contatto con la famiglia, perché letteralmente si viveva in un'altra epoca. Chiaro. E quindi mi sentivo davvero lontano, ecco, facevi le famose collect call, quelle per cui pagavano i tuoi genitori. Esatto. Bravissimo. Anche le collect call assolutamente erano un buon metodo. Io ricordo mia mamma quando dall'Inghilterra che rispondeva a questa signora: hello, you have a collect call? Mamma, di sì, di yes. Mamma, certo, di sì. Yes, yes, like, yes, yes. è vero, dovevano chiaramente accettare. Era il metodo che si utilizzava, ma ricordo questa sensazione proprio di distanza, che poi devo dire, andando avanti, ho avvertito sempre meno, anche, certo, perché... anche viaggiando, comunque tornando, come mi chiedevi, tornando negli Stati Uniti, ci sono tornato alcune volte nel 2000, nel 2002. Quindi li hai incontrati, ma... la tua famiglia americana, li hai rivisti? Li ho rivisti, sì, li ho rivisti a distanza di 6 anni, infatti, nel 2000 in particolare. E com'erano? Tanto diversi? Abbastanza. Più grassi di solito, pensando agli americani? Ma abbastanza, perché appunto io avevo poi una situazione particolare, e in particolare stavo con questo pompiere Jay, che appunto abitava in una grande casa con una fattoria, all'epoca era da solo, e poi quando ci sono tornato invece si era sposato. Ah, okay. E avevano già alcuni bambini, e quindi un contesto abbastanza, certo, diverso. Immagino. Andrea, io ti ringrazio molto per la chiacchierata, e a questo punto per la storia che ci hai permesso di leggere grazie all'archivio, e buon Natale a questo punto. Grazie, buon Natale a voi. A presto, ciao Andrea, ciao. I diari di Voi Siete Qui, in collaborazione con l'Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano. Questa seconda parte dei diari di Voi Siete Qui, che è una puntata, seconda parte di una puntata quasi tutta natalizia, è dedicata in maniera proprio espressa a tutte le persone che sono malinconiche e che hanno nostalgia di quei Natali di una volta. Avete presente proprio l'espressione Natali di una volta? Mia mamma è in prima fila tra queste, devo dire, quando mi dice, perché ai miei tempi i mandaranci solo a Natale, i mandarini, e parte che i mandaranci c'avevano i semi, i mandaranci solo a Natale, a volte alla vigilia. È perché appunto la storia che sto per raccontarvi, che arriva da un diario di Maura Calderoni, che ovviamente ci ha girato l'archivio diaristico nazionale di Pieve Santo Stefano, Maura è del 27 e racconta di un suo Natale a Bellaria tra gli anni 30 e 40, quindi parliamo tra la prima e la seconda guerra mondiale, ed è uno scenario che noi conosciamo perché ce l'hanno raccontato appunto i nostri genitori, i nostri nonni, ma sentirlo con quelle parole e con la sua voce sono una cosa completamente diversa, e anche le usanze che c'erano all'epoca. C'è una cosa che lei fa rispetto all'attesa della notte di Natale, no? In cui si tiene acceso il camino, lei dice, con un grosso ciocco, adesso lo dirà meglio nel suo diario, perché bisogna tenere caldo evidentemente la casa per l'arrivo di Babbo Natale, se all'epoca direi Gesù Bambino, chi per lui. Ed era una cosa che facevamo anche noi a casa mia: si lasciava il bicchierone di latte e la fetta di panettone, che vedo Miriam annuisce, anche Fabio, quindi più o meno da queste parti d'Italia negli ultimi 30 anni si faceva così. E mio padre, ovviamente, immagino mia madre: Tino, vai a mangiare sto, vai a mangiare sto. Mio padre si alzava in ciabatte, dava un morso al panettone e beveva un goccio di latte. Ma non l'ha mangiato tutto? Ma perché se vai in tutte le case, Gesù Bambino, e mangia tutti i panettoni, poi diventa un ciccione. Questo era più o meno il Natale in casa Caccia una trentina d'anni fa, per il quale comunque ringrazio i miei genitori. Mettetevi comodi, questa è la storia di Maura. Siamo negli anni, tra gli anni 30 e gli anni 40, a Bellaria. Ricordo Ricordo con molto piacere molti Natali della mia infanzia. Erano Natali più sentiti, caratterizzati da un sentimento religioso profondo e quasi collettivo. Per noi bambini era una festa molto attesa. C'era quasi sempre la neve e i grossi candelotti di ghiaccio pendevano da tutte le parti. Anche i cibi avevano la loro importanza tradizionale. Ogni settembre mia madre comprava un giovane tacchino. Tutte le mattine lo si mandava a pascolare nei dintorni e verso sera io dovevo condurlo a casa. A Natale, quando era ben ingrassato, gli si tirava il collo per fare un buon brodo e cuocervi i tradizionali cappelletti. Il giorno della vigilia mangiavamo l'anguilla pescata da mio padre e conservata viva nella marotta nell'acqua dolce del fiume. Allora erano molto in uso sportine di paglia traforate fatte appositamente per spedire le anguille per posta. Anche mio padre ne mandava in regalo a qualche villeggiante di Bologna e di Milano, suoi conoscenti o benefattori, calcolando che arrivassero vive per mangiarle fresche la vigilia di Natale, secondo tradizione. Ricordo bene il primo panettone che vidi e assaggiai. Era un panettone Motta. Ci arrivò da Milano, in una scatola di cartone marrone a forma del panettone, con i disegni in rilievo che noi conserviamo e conservammo come un'opera d'arte. Ce lo inviava l'ingegner Banfi, forse per contraccambiare gli auguri e l'anguilla ricevuta. Ogni anno, la sera della vigilia, venivano alla veglia le sorelle di mio padre con i loro mariti, da Rimini e da Ravenna. Uno di loro era un tipo sempre allegro e tutte le volte si portava appresso un grammofono per far ascoltare anche a noi le belle canzonette dell'epoca. Portavano poi il torrone e le castagne che arrostivano sulla teglia sotto il camino mentre mio padre offriva loro il vino buono, conservato per l'occasione. Si finiva a cantare tutti in coro le canzoni di Natale con molta allegria. Prima di andare a letto, come tradizione, si lasciava il camino acceso con un grosso ciocco di legna che durasse fino al mattino. Vicino al camino si lasciava una grossa brocca d'acqua tiepida, un catino e un bel asciugamano di lino bianco per la Madonna, che doveva venire in tutte le case a lavare Gesù appena nato. Noi bambini che andavamo a scuola elementare in gran segreto con qualche soldo risparmiato, compravamo una lettera che nel frontespizio raffigurasse la nascita di Gesù bambino nel presepe. La si portava a scuola e con l'aiuto della maestra e molto impegno da parte nostra, la scrivevamo al babbo augurandogli ogni bene e promettendo di essere più buoni. Il giorno di Natale, quando mia madre apparecchiava la tavola, io gliela mettevo sotto il piatto e appena ci sedevamo tutti a tavola e il babbo sospendeva il piatto per avere i cappelletti, la vedeva. Dimostrava allora di essere sorpreso, l'apriva e la leggeva ad alta voce. Poi, con una dolce e commovente espressione, metteva mano al portafoglio, estraeva una moneta e me la dava. Ecco, quello era l'unico regalo che io ricevessi in quegli anni. E se l'importo non era uguale in tutte le famiglie, non dipendeva solo dal buon cuore del padre, ma anche dallo spessore del suo portafoglio. Io ero felicissima di quei pochi soldi che ricevevo senza desiderarne di più, e correvo dalle mie amiche per sapere se anche loro avessero ricevuto lo stesso regalo. Assieme progettavamo poi come spenderle, se alle bancarelle dei dolciumi o del tabaccaio per comprarci un pennino nuovo e una carta assorbente, o metà almeno per metterli nel salvadanaio che la cassa di risparmio ci dava da tenere e come ci consigliavano i nostri genitori. Ogni Natale a mia madre mi comprava un paio di zoccoli, nuovi per la domenica. Ricordo in modo particolare la mia gioia quando mi comprò il modello da giovinetta con il tacco e verniciati di rosa. E sapete perché queste pagine di diario rappresentano così bene l'epoca in cui sono state scritte? E in questo caso, nel caso di Maura, gli anni 30, gli anni 40, rappresentano non solo per quello che raccontano, per il contenuto che è chiaramente appartenuto e appartiene ad un'altra epoca, quella dei nostri nonni o dei nostri genitori, ma per le parole che usano. Tirare il collo al tacchino è una cosa che oggi non scriverebbe nessuno, perché avrebbe paura di dirlo. Beh, è brutto tirare il collo, poi a parte dirlo in una radio, adesso saremmo già animalisti che ci riempiamo tempi erano di SMS, però quello che lei ci dice è proprio era un modo di dire. Mia nonna diceva, ti ruma il collo alla carina e poi ci facciamo il brodo. Ecco perché sono uno spaccato preciso di quell'epoca, così come l'anguilla. Mi ricordo la prima volta che vidi un'anguilla in casa mia, quasi svenni dallo schifo perché mi ricordava un serpente. Poi, dopo che ho scoperto invece che tutte le anguille arrivano dal Mar dei Sargassi, le trovo gli animali più affascinanti, ma questa è un'altra storia. Io ringrazio Fabio Cantadori, ringrazio Miriam Lucchetti, ringrazio Tiziano Bonini, vi auguro un buon sabato, una buona domenica, noi ci risentiamo lunedì con Voi Siete Qui. Ringrazio soprattutto Andrea e Maura perché i diari di oggi erano i loro e anche loro sono due punti rossi su una mappa.